L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale parleremo di un bellissimo documentario. Si intitola Dusk Core, ovvero il coro del crepuscolo. È un documentario molto particolare perché documenta con l'audio, più che con il video, l'impatto delle attività umane nella foresta amazzonica in Ecuador. E vi assicuro che si sentono le attività umane, se le percepisce l'orecchio di una persona, tanto più le sentono gli animali. Qui è il sonoro in 3D, non il video, e quindi non in tutti i cinema, né tantomeno a casa, è possibile godere della bellezza di questo documentario e della sua particolarità. Il film ruota attorno alla figura di David Monacchi, un ricercatore e compositore ecoacustico che sta registrando il patrimonio sonoro di questi ecosistemi millenari, per studiarlo sì, ma anche per lasciarlo in eredità ai posteri, perché non sono più quello che erano 10 anni fa e chissà cosa saranno in futuro. Il film ha la regia di Nika Saravania e la condirezione di Alessandro D'Emilia, entrambi studenti all'epoca della ZELIG, scuola di documentario, televisione e nuovi media di Bolzano. Li sentiremo entrambi, a cominciare da Alessandro D'Emilia. Cosa più importante per noi, quando abbiamo conosciuto David, il protagonista del film, è stato quello di avvicinarsi a queste tematiche, al suono degli ecosistemi della foresta, tramite il personaggio di David. Quindi abbiamo voluto calarci, come dire, nei suoi vestiti, ascoltare con le sue orecchie, guardare questo mondo attraverso i suoi occhi, e quindi in un certo modo restituire poi allo spettatore questo tipo di esperienza, guidati da un professionista come David, che è in grado di avvicinarti a questo mondo sconosciuto, pauroso per i suoi suoni che si possono ascoltare nelle lunghe notti passate al buio, e apprezzarne proprio la bellezza con stupore. È stato pauroso per voi questa esperienza in Amazzonia, quindi? Beh, sicuramente per me sì, anche se devo dire sono abituato a rischio, a stare in montagna. Io arrampico, scio, sono maestro di sci, ho scoperto il mondo dell'audiovisivo grazie allo sport, possiamo dire, quindi a un certo tipo di attività, però in Amazzonia mi sentivo proprio un pesce fuor d'acqua, e devo dire che se non fosse stato per David e per anche il suo modo di entrare in questo mondo e di vedere prima lui che si sentiva piano piano a suo agio, io da solo dopo un po' avrei iniziato veramente a non resisterci più. Là mi sentivo, cioè sono arrivato sicuro, e poi piano piano mi sentivo sempre meno sicuro di quello che vedevo, di quello che ascoltavo, di dove ero, perché ti rendi conto che intorno a te c'è un mondo ma che non vedi, perché non hai gli occhi, non conosci e non riconosci quello che ti sta intorno. Invece lo senti bene, perché voi eravate lì per documentare quello che si sente, quindi forse anche non capire quello che senti e la pericolosità di quello che senti può acuire la paura. Sicuramente, anche perché nell'intento appunto di David, e quindi anche nostro che eravamo là a riprenderlo e aiutarlo nel suo progetto, era quello di portare a casa una registrazione senza mai premere stop, diciamo, quindi continua, di 24 ore in un posto assolutamente privo di inquinamento umano e di altri suoni che potessero in un qualche modo interferire quello dell'ecosistema. E quindi provate a immaginare stare 24 ore nello stesso posto, praticamente immobili, con le zanzare, serpenti o quello che si può immaginare, ragni eccetera, di notte anche, ogni magari 5 minuti si accende la frontale per vedere se tra i piedi è arrivato qualcosa, però tu sei là o in amaco, in piedi, fermo come una statua, e David lo era ancora di più di noi, e al buio, e quindi entri in questo flusso e ti rendi conto di come proprio grazie a questi suoni, piano piano, dalla prima impressione che ti fanno di timore, così piano piano ne apprezzi proprio la bellezza e la complessità. Febbraio 2016. Siamo partiti in tre, consapevoli di essere già in ritardo, per documentare l'ambiente acustico di un'area chiave per la biodiversità. Che vari fattori stanno modificando profondamente. Per me non è il primo viaggio in Amazzonia, ma oggi è possibile lavorare con microfoni a definizione ancora più elevata. Tecnologie tridimensionali mai portate prima d'ora in questi luoghi remoti. E qui tentare di registrare l'impronta sonora di un ecosistema a rischio di estinzione. Nika Sharavagna invece l'aspetto dell'immagine qui conta meno in questo film. Sì, è stato un lavoro davvero difficile, e abbiamo messo tanto tempo per trovare un modo come farlo, perché il progetto è sul sonoro e abbiamo provato a trovare queste immagini meditative, e poi noi non eravamo tipo professionisti di National Geographic o così, che eravamo lì per mesi e mesi ad aspettare che arriva l'immagine perfetta, l'animaletti, perché in giungla tu senti 20.000 animali, 20.000 specie e non vedi nessuna, e noi eravamo lì per pochissimo tempo, eravamo molto focalizzati su quello che sta facendo David. Questo film è nato in montaggio, dove abbiamo provato a trovare queste, diciamo, finestre dove c'è solo l'ascolto e dove non è che tu senti un uccello e che lo vedi sull'immagine, ma proprio provare a dare il senso dell'ecosistema che funziona come funziona, che si è sviluppato per milioni di anni, no? Anche aggiungo solo una cosa, anche perché era molto importante anche per noi a livello di immagini, come lo è per David nel suo progetto, riportare il focus e anche allo spettatore di questa complessità di un ecosistema, e quindi non concentrarsi sul singolo suono del singolo animale, ma sulla relazione che tutti questi suoni all'interno di un ecosistema enorme, insomma come in un'orchestra, si ha la possibilità di sentire. Quindi l'immagine doveva in un certo modo raccontare, no, questa relazione, quindi offrire, come diceva Nika, una finestra sull'ecosistema più che sugli animali, no, alla National Geographic. Più che sul viaggio, poi, dopo, come si era detto prima. Esatto, e poi volevamo anche un'altra cosa: le persone non sono più abituate a ascoltare, perché anche se il nostro, come si dice, suono va a 360, noi stiamo sempre focalizzati più ai occhi. E in questo film volevamo provare a trovare un modo di lasciare la gente questo spazio dove possono chiudere gli occhi, dove possono focalizzare più al suono, e avevamo il goal anche per la gente e il pubblico quando esce fuori dal cinema, che magari sente in un altro modo, di fare un shift del focus dalla vista al, come si dice? Alle orecchie, all'udito. Sì, audito, sì. Due cose ancora. La prima, per noi che ascoltavamo in sala, quel rumore di sottofondo generato dalle attività umane era evidente. Diciamo così, l'avete pompato o è così? Cioè si sente così? Il rumore è così, non è stato pompato, è stato... Noi per un mese e mezzo non siamo riusciti, tranne tre giorni, a nasconderci di questo rumore. Questo rumore era quasi continuo. E c'erano dei momenti dove smetteva o si abbassava, e in questi momenti sentivi gli animali che subito cominciavano a vocalizzare, però il rumore di sottofondo che occupa le frequenze più basse di mammiferi, di scimmie, così era quasi tutto il tempo lì. Tutti questi rumori che ci circondano, li notate di più dopo aver fatto questa esperienza? Vi disturbano di più? Io definitivamente sì, e poi c'era tipo a Bolzano, c'era un giorno dove era vietato traffico, c'era un giorno di bicicli, e subito tutto il giorno ascoltavo gli uccellini fuori che stanno cantando. Alle 5 hanno di nuovo messo il traffico, smesso tutto. Come avete convinto la vostra scuola a mandarvi un mese e mezzo in Amazzonia? Cosa gli avete detto? Che cosa non gli abbiamo detto? No, a parte gli scherzi, è sicuramente doveroso ringraziare la ZELIG, scuola di documentario di Bolzano, che ha creduto in noi e nel progetto del film che sarebbe potuto, che ci sarebbe potuto realizzare, insomma. E niente, gli abbiamo semplicemente detto che eravamo innamorati del progetto, che ci interessava molto e che avremmo fatto il massimo per portare a casa un buon film. Grazie ad Alessandro D'Emilia e Nika Saravania, che sono stati con noi per questa puntata. A tutti voi un buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini e appuntamento la settimana prossima alla stessa ora.